quello che stupisce è che il numero sia aumentato, nel senso che noi abbiamo sempre avuto forti dubbi sul fatto che le indagini si stessero effettivamente svolgendo, nel senso che, come sappiamo, le indagini sulle morti delle 9 persone sono state archiviate in estrema fretta, e di questo ne abbiamo parlato a lungo anche su questa radio. E quindi, insomma, diciamo che salutiamo con piacere il fatto che invece sembra che qualcosa si stia muovendo, almeno dal punto di vista del fascicolo per tortura. Ecco, questo sicuramente è una cosa positiva. Ci teniamo sempre a precisare che la questione non è una questione di vendetta, siamo antipenali, anticarcerari sempre, sì, non è che una cosa vale in un senso e non vale nell'altro, però diciamo che il fatto che questi fascicoli per tortura, che insomma a Modena sono saliti a 14 imputati, però ricordiamoci che sono fascicoli aperti in tantissime carceri del nostro paese, stanno un po' sgretolando quel muro di omertà che sappiamo essere tipico delle questioni che avvengono dentro le mura del carcere, nel senso che purtroppo anche quello che è successo a Santa Maria Capua Vetere dà abbastanza al metro di quanto queste persone si sentano intoccabili, e quindi insomma Santa Maria Capua Vetere non si erano neanche disturbati a pensare che ci fossero le telecamere, per dire. E quindi diciamo che insomma tutti questi fascicoli, compreso quello di Modena, danno la speranza sul fatto che qualcosina insomma si possa venire a sapere al di là di quelle mura grigie che per ora li hanno protetti molto, ecco. Inizialmente le morti del Sant'Anna erano state derubricate subito a suicidi per overdose, il fatto che aumentino comunque anche gli indagati ci dicono che qualcos'altro è successo. Questo sicuramente sì, diciamo che insomma appunto una cosa che già dal metro di quello che è successo è che il fascicolo sulle morti si è viaggiato separato dal fascicolo sulle torture, è successo tutto lo stesso giorno, quindi tecnicamente i due fascicoli potevano tranquillamente viaggiare insieme, ma non è stato così, perché le morti dovevano essere archiviate in fretta, mentre sulle torture appunto si stanno ancora raccogliendo informazioni. Diciamo che invece un dato piuttosto inquietante è che la procura ha chiesto tutte le proroghe possibili di legge, quindi diciamo si è presa ampiamente il suo tempo, speriamo che questo abbia voluto dire effettivamente raccogliere informazioni, e nel giro di brevissimo, diciamo ce l'aspettiamo entro la settimana prossima, questo fascicolo deve essere chiuso, nel senso che non c'è più proprio spazio di legge per poter tenerlo aperto ancora, quindi penso che ci risentiremo a breve, questo insomma era il messaggio. Per contro succederà la stessa cosa al fascicolo per chi ha causato la rivolta, nel senso che sappiamo che questo fascicolo è aperto, ma è aperto anche il fascicolo appunto per chi ha partecipato alla rivolta, quindi ci sono 70 denunciati tra i detenuti, tra cui persone che sappiamo benissimo non c'entrare assolutamente niente. Su questo fascicolo invece al momento non abbiamo ancora notizie, dobbiamo per forza aspettare la fine delle indagini. I detenuti che sarebbero stati oggetto di pestaggi e torture sono diversi da, sono altri detenuti rispetto a quelli che poi sono morti? Sì, poi chiaramente insomma non siamo nati ieri, quindi desumiamo che le storie siano tutte intrecciate, intersecate, però diciamo che il fascicolo si è popolato, che partiva come fascicolo di denuncia contro ignoti, quello per tortura, invece appunto inizialmente sono state identificate 5 persone, poi 7, adesso 14, questo perché ci sono detenuti coraggiosi che stanno continuando ad andare a fare deposizioni, a fare esposti, a testimoniare che quel giorno non è successo solo quello che ci hanno raccontato diciamo le istituzioni fino ad oggi. Non credo che sia solo i detenuti, nel senso che molti dei detenuti che hanno testimoniato li siamo in contatto con loro, credo che abbia influenzato molto il numero degli imputati anche il fatto che abbia testimoniato anche un agente della polizia penitenziaria, come è uscito sui giornali un po' di tempo fa. Questa però è una deduzione mia personale, nel senso che vedremo appunto quando chiuderanno i fascicoli che cosa è successo esattamente. Ecco, i detenuti che hanno avuto il coraggio di denunciare sono ancora reclusi a Modena o sono stati trasferiti? Trasferiti, oppure anche hanno finito di scontare la pena, perché ricordiamoci che questa vicenda risale a 3 anni fa, quindi alcuni di loro fortunatamente hanno smesso la loro attività all'interno delle carceri. Però sì, no, a Modena non è rimasto più nessuno. Credo che anche l'attenzione mediatica su questo caso stia facendo veramente sia di un'importanza estrema, e quindi sì, continuiamo a fare rumore.